140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Teatro alla Scala, Milano. Il 1 maggio alla Scala la Turandot inaugura Expo. Il sovrintendente Alexander Pereira e il direttore musicale del teatro Riccardo Sciai. Fa parte della storia della Scala, è nata nel 24 sotto la direzione del grande maestro Toscanini, è amata dal pubblico di tutti i continenti del mondo ed ha una grandezza nel suo linguaggio assolutamente strabiliante ancora oggi. Ricordo che Puccini negli anni 20 ha cercato di trovare nel suo linguaggio stesso un progressivo evolversi, anche nei confronti della modernità del suo linguaggio, e Giacomo Puccini è stato l'ideale preparatore a colui che avrà dovuto poi essere chiamato a terminare il finale, quindi Luciano Berio, che da grande compositore del XXI secolo ha avuto una folgorazione studiando quest'opera, proprio perché rappresenta il modernismo estremo del linguaggio di Puccini. Quindi un capolavoro che nasce negli anni 20 ma che si ripropone, torna alla luce intorno al 2002. È un'opera tormentata dal punto di vista proprio cromatico e di quello che sono le tinte, ma anche dal punto di vista armonico. L'armonia che accompagna queste meravigliose melodie è sempre molto inquieta, un'opera molto inquieta. E questa inquietudine viene realizzata nel finale da Luciano Berio con altrettanta bravura, con un linguaggio più vicino a noi, chiaramente, perché abbiamo un secolo di distanza dalla prima, però molto affine in tanti passaggi, e ricordo che Berio ha adoperato una notevole quantità degli schizzi lasciati da Puccini, onde poter creare in quei 16 minuti del finale una teatrale credibilità. È chiaramente un tentativo di risoluzione del problema. Nessuno sa come avrebbe concluso Puccini. Questo fa parte della storia dei grandi incompiuti, della storia della musica, però è una possibilità d'ascolto, una possibilità di avvicinamento, e in questo io tengo molto a ricordare che Luciano è stato straordinario nel lavoro che ha realizzato. Questo teatro da quando ero ragazzo, ho fatto tanti progetti sinfonici e operistici, quindi sicuramente è un momento in cui viene siglata la mia collaborazione ufficialmente con questo teatro, però nasce su un percorso molto molto lungo che ho avuto in questi anni in questo teatro, in particolare con l'Orchestra della Scala e l'Orchestra Filarmonica della Scala. Il primo passo è stato quando mio padre mi portò a un'esecuzione del suo balletto Fantasmi al Grand Hotel, col corpo di ballo della Scala, e quindi io avevo 8-9 anni, credo, e ricordo ancora l'impatto proprio visivo di questo teatro e la magia della sala del Piermarini. Alzati, vecchio e morta!